cigolio. Anche pensare piano. Esatto. Pensare piano. Questo dibattito è organizzato dalla Casa della Cultura e dall'Associazione Quarta Internazionale e avevamo pensato, innanzitutto perché Trotsky? Perché Trotsky durante il mese di agosto ricorreva il cinquantenario della morte e diversi giornali ne hanno parlato, ne ha parlato perfino Repubblica in un vergognoso, bruttissimo articolo di Rocca, e comunque noi pensiamo che Trotsky nella storia del movimento operaio del XX secolo abbia avuto un certo ruolo. Non a caso ne hanno parlato i giornali nel cinquantesimo della morte, perché non soltanto ha avuto un ruolo nella rivoluzione d'ottobre, nella rivoluzione russa, ma anche perché il problema del stalinismo e antistalinismo è stato presente negli ultimissimi anni in modo direi costante. Si è parlato moltissimo di Stalin, si è parlato molto delle colpe di Stalin, dei crimini eccetera eccetera, ma si è parlato molto poco di Trotsky. Alcuni, ad esempio, non soltanto in Unione Sovietica ma anche da noi, pensano che Trotsky sia stato l'alter ego di Stalin, cioè dicono che se Trotsky fosse rimasto vivo, avesse vinto lui nella lotta politica con Stalin, avrebbe fatto né più né meno che le stesse cose che fece Stalin. Tra l'altro alcuni di quelli che dicono questo oggi sono poi quelli che negli anni 60 e 70 parlavano dell'Unione Sovietica come sociale imperialismo o dell'Unione Sovietica come capitalismo monopolistico di Stato. Noi pensiamo che Trotsky su questo abbia detto delle cose che poi si sono rivelate profetiche sulla natura dell'Unione Sovietica e dei paesi che poi sono derivati dall'Unione Sovietica, i paesi dell'Est, e quindi nella crisi del comunismo o cosiddetto tale dell'Est europeo, noi pensiamo che Trotsky e il trotskismo abbia delle cose da dire. Non a caso ho parlato del ruolo di Trotsky durante la rivoluzione russa, si potrebbe anche parlare del ruolo di Trotsky nel movimento operaio dei primi anni del XX secolo e poi del ruolo del trotskismo nella fase attuale. E in mezzo a questo c'è un buco, che poi è un buco effettivo. Chi non ricorda per esempio la famosa fotografia di Lenin che parla dal palco e di un buco dove non si sa chi ci fosse sulla sinistra del palco, ecco, lì c'era Trotsky e Stalin, lo stalinismo fece cancellare completamente Trotsky, perché Trotsky per tutta una serie di anni, di decenni oseremmo dire, non esisteva proprio, fu cancellato dalla storia, non solo Trotsky, Bukharin e tutti i dirigenti della creazione dell'Unione Sovietica e del Partito Bolscevico. Ecco, noi vorremmo contribuire a riempire oggi, se ce la facciamo, a riempire questo buco. Naturalmente non ce la facciamo, ma questo nella convinzione che Trotsky, fino al 1940, e il trotskismo abbiano sulla fase attuale soprattutto delle cose da dire, perché molti ad esempio sono convinti che Trotsky è stato magari un grand'uomo, un grande rivoluzionario, però ha detto delle cose che oggi sono scadute di attualità. Invece noi pensiamo che questo non sia vero. Ecco, se oggi riusciremo a contribuire a riempire dei buchi storici e non solo, avremmo già fatto molto. Ecco. Allora, per questo noi abbiamo invitato alcuni, chiamiamoli così, esperti, ma poi tutto sommato non sono soltanto degli esperti, nel senso che anche loro sono dei militanti politici che fanno lotta politica quotidiana, e quindi non sono soltanto degli esperti o dei docenti di storia del movimento operaio e così via, ma sono docenti e militanti che fanno lotta politica quotidiana, e questo ci teniamo a ribadirlo perché ci sembra importante questa cosa, nel senso che Trotsky e il trotskismo non possono vivere solamente sui libri, ma è importante che quotidianamente si faccia lotta politica sulle cose dette da Trotsky e sulle cose dette dal trotskismo. Direi che potremo iniziare con Roberto Massari, che ha scritto un saggio, un libro su Trotsky e che parlerà dell'ultimo capitolo, cioè diciamo prenderà spunto dall'ultimo capitolo di questo libro, che parla dell'utopia e l'umanesimo in Trotsky. Vado. Metto in piedi, parlo meglio. In realtà, essendomi stato chiesto di parlare per primo, sono obbligato anche a dire delle cose un po' più generiche, ma di introduzione a questo grande personaggio, perché quello che è l'ultimo capitolo del mio libro è anche il punto di arrivo della maturazione di Trotsky, cioè il massimo dell'espressione trotskiana sul terreno dell'utopia, sul terreno della previsione epocale, sul terreno dell'etica, sul terreno dell'impegno artistico, estetico, psicanalitico e così via, è un punto di arrivo di maturazione, che è comprensibile, come poi avviene nella storia dei grandi marxisti del nostro secolo, soltanto se uno ne ripercorre all'inverso l'itinerario, cioè come è arrivato a quel punto. E il come è sempre storia di lotta di classe, storia politica, storia di pensiero, storia di come il singolo individuo si misura con i problemi della sua epoca o con problemi di altre epoche, nel caso di Trotsky citerò immediatamente uno di questi, con gli occhi rivolti al presente. Facevo riferimento per esempio a un saggio giovanile di Trotsky, molto famoso ma andato smarrito, di cui ne parla soltanto lui, che è il suo studio sulla natura della massoneria. Ora, l'attualità di un tale testo non è perché oggi la massoneria c'è ancora ed anzi sapete in quali forme, ma è perché Trotsky si pose all'inizio del suo marxismo immediatamente il problema: è possibile usare il marxismo, quindi le categorie così storicamente determinate dal punto di vista economico, della dinamica delle classi, è possibile utilizzarle per un qualche cosa che ha dimostrato di poter sopravvivere attraverso le epoche indipendentemente dalla natura di classe delle epoche? E allora gli sembrò in quel momento che la massoneria, lo studio della massoneria, potesse essere un banco di prova. Ma un banco di prova di che cosa? Della dialettica marxista, cioè della capacità del marxismo di superare se stesso, di applicarsi a fenomeni molto più complessi o molto diversi da quelli ai quali era stata applicata dal suo fondatore Carlo Marx, quello con la grossa barba, nato a Treviri circa 180 anni fa, se non vado errato. Allora ecco, tra quel saggio giovanile sulla massoneria di un marxista che sente subito il bisogno di metterlo alla prova il marxismo per vedere se funziona poi su certe cose, e il finale, questo Trotsky che introduce il marxismo, anzi introduce la psicanalisi nel marxismo, questo Trotsky che firma con Breton il manifesto dei surrealisti, questo Trotsky che dà vita ad una delle teorie estetiche dell'epoca moderna, che è quella a mio avviso più interessante e che ha soppiantato la vecchia estetica marxista di Plekhanov, questo Trotsky che, se si mettessero insieme le sue opere sulla letteratura russa moderna dell'epoca sua, ne ricaveremmo una breve storia letteraria, critico-letteraria della letteratura russa. Ecco, questo Trotsky evidentemente è arrivato a questo punto perché è riuscito, col suo metodo, con la sua esperienza personale, con i suoi principi etici, di cui io spero di avere il tempo di parlare, con la sua compenetrazione con le grosse correnti di pensiero della sua epoca, compenetrazione critica o di adesione, è riuscito a dare al marxismo quel respiro, quell'ampiezza, quella dialettica nel vero senso della parola che il marxismo della Seconda Internazionale non era certamente riuscito a dare. Non perché non fosse ricco, per carità, il marxismo della Seconda Internazionale, che credo il marxismo della Seconda Internazionale, quello della Terza, deve impallidire rispetto alla ricchezza di dibattito che aveva avuto il secondo, di dibattito, di studio, di applicazione sociologico, critico, storica e così via. Ma il marxismo della Seconda Internazionale aveva preso una deviazione di carattere unilaterale, cioè aveva creduto di poter isolare alcune variabili dell'epoca moderna e alla luce di quelle studiare l'evoluzione dell'uomo, l'evoluzione della società, l'evoluzione della lotta politica. Trotsky è, a mio avviso, scusate, potrete pure non essere d'accordo, il più grande figlio della Seconda Internazionale. Però era una famiglia di figli tutti un po' particolari. Quando pensiamo a nomi come Lenin, Trotsky, Parvus, Rosa Luxemburg, lo stesso Kautsky, e perché? Anche i revisionisti, lo stesso Bernstein, stiamo parlando di grosse menti della fine del XIX secolo e dell'inizio del XX. E notate bene che io trovo una difficoltà ad aggiungere a questo aggettivo grosse menti del movimento operaio, come invece sarei costretto a fare oggigiorno se esistessero, per carità, queste grosse menti del movimento operaio. Parlando di questi grandi figli della Seconda Internazionale, ho la tendenza a dire queste grandi menti. Perché? Perché era un momento in cui la dottrina sociale, politica, economica, teorica, sociologica, ideologica del movimento operaio aveva raggiunto un livello talmente alto da praticamente assorbire al suo interno il meglio del pensiero della sua epoca, il che significa anche il meglio del pensiero della borghesia. Basti pensare a quello che fece un Michels, che assorbì completamente il pensiero di Max Weber al punto da produrre la più moderna e la più ricca dell'analisi dei processi di burocratizzazione, cioè quello della burocratizzazione del Partito Socialdemocratico Tedesco, no? E quello è un esempio. Trotsky è sicuramente un altro di questi grandissimi esempi, come lo è indubbiamente Lenin, Plekhanov, Rosa Luxemburg e così via. Però limitiamoci a Trotsky. Io lo considero il più grande figlio della Seconda Internazionale sia per il modo in cui lui ha saputo imparare dai maestri della Seconda. È stato un allievo sicuramente di Kautsky, è stato a suo modo un allievo un po' ribelle anche di Lenin, nel senso che con Lenin ha avuto una passione immediata e un immediato ritirarsi indietro che ha significato poi 14 anni di scontro politico e ideologico con il futuro dirigente numero uno della rivoluzione russa. Trotsky è stato quindi figlio di questo mondo in cui confluiva l'eredità europea, l'eredità razionalistica europea, quella che aveva le sue radici nell'illuminismo, in cui confluiva anche quella sana ventata che il positivismo portò nell'ambito delle scienze sociali, salvo poi aprire la strada ad ulteriori degenerazioni. Ecco, Trotsky appare alla fine del XIX, ma soprattutto all'inizio del XX secolo, come figlio di questo grande insegnamento. E però, ecco lì, chi è che scrive il manifesto di Zimmerwald? E voi credo sappiate che Zimmerwald segna l'inizio del processo di nascita della Terza Internazionale, cioè il momento in cui la sinistra della Seconda Internazionale si coalizza, si qualifica sulla tematica della guerra mondiale e inizia quel processo che poi porterà alla rivoluzione russa, porterà al 17, al 18, al 19, perché spesso ce lo dimentichiamo, anche questi abili commentatori dei giornali si fermano al 17, perché il 18 che gli ha fatto? E il 19, e il 20, e il 21, e il 22, ancora in Austria, ancora nel 34, la rivoluzione proletaria cercava disperatamente di trovare delle forme di espressione di massa in Austria, ancora, 34, se non vado errato, di un anno o mezzo. E allora ecco Trotsky iniziatore di questo processo, lui che era stato uno dei fermenti critici all'interno della Seconda Internazionale, accoppiato in questo a Parvus. Tutte queste cose le ritroviamo in un certo senso alla fine della vita di Trotsky, le ritroviamo in senso storiografico, perché Trotsky nel 38 e soprattutto nel 39, per esempio quando lavorava alla biografia di Stalin, che non poté concludere per via dell'uccisione da parte del sicario, scrisse un saggio che doveva andare in appendice allo Stalin e non in appendice a Lenin, come è stato detto erroneamente da uno studioso qui in Italia. Per il saggio di andare in appendice allo Stalin parlò delle tre posizioni che c'erano, delle tre linee nella socialdemocrazia russa, no? Rivendicando la sua, quella della rivoluzione permanente, quella di Lenin e quella del menscevismo. Ma la sua linea, la sua corrente di pensiero non era soltanto trotskiana, no? E lì in quella corrente di pensiero c'era Parvus, il Parvus che ormai era diventato un paria del movimento operaio per le sue posizioni assunte alla fine della prima guerra mondiale. Pure Trotsky nel 39 rivendica con coraggio, con dignità e con onestà questa gratitudine ideologica che lui deve avere nei confronti di Parvus, e attraverso Parvus, notate bene, e questa è una questione molto importante, Parvus non fu soltanto l'uomo che elaborò insieme a Trotsky la teoria della rivoluzione permanente, come viene detto in tutti i manuali, sia di parvusismo che di trotskismo e così via. Ma Parvus fu l'uomo che introdusse Trotsky nel mondo dello Schwabing, cioè, per capirci, quel mondo intellettuale della Germania degli anni quella Germania degli anni 10, cioè tra i 10 e il 17, di quella Germania che vedeva le grandi secessioni dal punto di vista delle arti figurative, che vedeva la nascita di molte delle espressioni moderne del teatro d'avanguardia, che vedeva la nascita anche delle principali correnti contemporanee e moderne di elaborazione musicale, no? Dalla dodecafonica a tutto il lavoro di Schoenberg e gli altri che così seguiranno. Insomma, in quel mondo fu introdotto Trotsky proprio da Parvus, perché Parvus rappresentava un po', dal punto di vista intellettuale e ideologico, un crocevia tra il massimo del decadentismo del pensiero borghese dell'epoca, per carità, talmente alto e talmente di rispetto da non poterlo paragonare col pensiero decadente borghese dell'epoca nostra, perché quello era un pensiero decadente che, come accadde, non so, mettiamo alla fine dell'Impero Romano, nella sua decadenza ancora esprimeva valori, contenuti, forme estetiche, libertà, no? Per carità, lo studio di come la borghesia, il pensiero borghese decadde in quell'epoca è ancora ricchissimo e affascinante, però era un crocevia in cui questa decadenza del pensiero borghese si legava a questo istintivo ruspante radicalizzarsi del movimento operaio. E allora ecco, io quello che ho cercato di fare nel mio libro, e che ovviamente non posso assolutamente sperare di fare qui questa sera, è quello di racchiudere tutta l'epopea, è il caso di impiegare questo termine perché non si tratta di un'epopea individuale, ma si tratta di un'epopea politica, di classe sociale, è la storia della rivoluzione russa, è la storia della guerra civile spagnola, è la storia di come il fascismo e il nazismo si sono imposti in Europa. Questa epopea trotskiana, secondo me, deve essere racchiusa all'interno di queste grandi date, che sono appunto la crisi, la riflessione sul destino della Seconda Internazionale e la conclusione della vita di Trotsky, che è il tentativo di fondazione della Quarta Internazionale. Quindi tre internazionali entrano in ballo, la seconda, la terza e la quarta, no? Può sembrare un giochetto matematico, in realtà in questi passaggi si giocano drammi epocali, muoiono decine di milioni di persone, scoppiano guerre mondiali, due addirittura, ci sono rivoluzioni che trionfano e poi deperiscono, come è il caso di quella sovietica, di quella russa, vi sono tentativi rivoluzionari che vengono schiacciati, vi è il passaggio anche della borghesia, una grande trasformazione da questa borghesia che alla fine del XIX secolo ancora tentava paese per paese di reggere il potere insieme ai capi riformisti del movimento operaio, si trova negli anni 30 a prediligere invece lo strumento totalitario nella forma del nazismo, del fascismo, del franchismo, del mikado giapponese e poi tentativi anche petanisti, quello che voi sapete, in altri paesi. Ecco, questo è seconda, terza e quarta internazionale e Trotsky va collocato a questo interno. Allora, il mio tema, se avessi parlato per ultimo, sarebbe stato concentrato sulla tematica dell'utopia. Cioè, ma come Trotsky con l'utopia? No, ma come, è un razionalista? Perché in fondo l'utopia come parola è stata discreditata tanto quanto è stato discreditato Trotsky, tanto quanto è stato discreditato Blanqui. Io ho invitato qui un blanquista stasera, uno studioso di Blanqui, mi pare che non è venuto, vabbè, speriamo che venga. Insomma, il discredito della parola utopia è collaterale a tutte queste. Ebbene, Trotsky è stato, a mio avviso, l'uomo che è riuscito meglio di chiunque altro a dare fondamenti razionali al concetto di utopia. Questo perché credo che quando parliamo di utopia, non di quella estetico-letteraria, ma dell'utopia sociale, politica, epocale, una concezione della vita tedesco, Weltanschauung, no? Quando parliamo dell'utopia in questa concezione non ci interessa l'utopia puramente pazzerellona che fa una lista della spesa delle cose che sarà bello fare, ma ci interessa quell'utopia che è apparentemente irrazionale, perché parla di cose che sembrano così difficili da realizzare da renderci disperati, ma che ha al suo interno dei germi di critica sociale, di proposta sociale, che in fondo ci fanno sospettare che questa utopia sia realizzabile. Questa è la figura di Trotsky, non c'è dubbio. Per carità, non dico che Trotsky è stato sempre così, andate a vedere gli scritti del 18-19, scritti che io considero d'occasione dell'epoca, orrendamente segnati dall'epoca, come Terrorismo e Comunismo di Trotsky. Ci sono anche altre cose non belle, sono segnate dall'epoca, dal comunismo di guerra, dal sangue che scorreva nella rivoluzione russa, dall'assedio, dal come la rivoluzione si era circondata. Però quindi dico, non sempre c'è questo Trotsky, ma nell'arco di una vita noi vediamo che invece alla fine ciò che domina è l'elemento utopico, distribuito nei campi in cui l'utopia si può esprimere. Allora ecco, in questa luce c'è tutto il discorso di Trotsky sull'estetica, sulla critica letteraria, le sue teorie sull'arte, sull'impossibilità dell'arte proletaria, non perché essa sia utopica, ma perché essa addirittura avrebbe un contenuto conservatore, in quanto arte con l'aggettivo proletaria significherebbe anchilosare un concetto universale come quello dell'arte, significherebbe anchilosarlo ad una struttura di classe particolare, per giunta, dice Trotsky, una struttura di classe che deve necessariamente avere una breve esistenza nell'arco della storia. La società proletaria è soltanto un momento di passaggio, a differenza della società borghese, proprio perché mentre la borghesia aveva tutto l'interesse, il bisogno di consolidarsi come classe, di qui la sua esistenza per 4 secoli, 5 secoli, 6 secoli, il proletariato ha tutto l'interesse a sopprimersi come classe, cioè a cessare di essere proletario. Di qui l'impossibilità di un'estetica proletaria, l'impossibilità di un'etica proletaria, l'impossibilità di un'ideologia proletaria, se non l'ideologia di questo passaggio, questa ideologia di transizione. Notate bene che sulla parola transizione si può fare confusione, perché c'è la transizione intesa come conquista del potere e c'è la transizione al socialismo, che è la fase dopo la presa del potere che dovrebbe portare a quello sviluppo dei rapporti di produzione che permettono giustamente al proletariato di sopprimersi come classe, allo Stato del proletariato di scomparire come struttura statale e così via. E quindi c'è, questo è il primo terreno, che è quello dell'estetica, dove Trotsky dice delle cose assolutamente dissacranti, dirompenti, ma non soltanto per il mondo del Comintern, perché quello era ormai talmente anchilosato già ai primordi che era facile spezzare, sapete, dopo la rivoluzione russa addirittura ci furono i cortei degli artisti nudi, ci furono una serie di cose che dimostravano proprio il bisogno di rompere anche sul piano gestuale, sul piano della prassi quotidiana dell'artista con vecchi schemi. Quindi non era questo tanto il campo. Secondo terreno, quello dell'etica, è un terreno su cui Trotsky si misura. Io nel mio libro ricordo solo due precedenti suoi. Uno è il giovane Lukács, che ha scritto molto sull'etica. Vi consiglio di andarvela a rileggere, sono cose farneticanti, cose da fanatico, proprio l'etica della produzione, l'etica del comunista, più produce, si deve sacrificare. Il giovane Lukács, 1918-19-20, trovate, questa è l'unico che si era però occupato di morale nell'epoca sua. E l'altro, io cito Pasciukanis, un lituano, che scrisse un bellissimo libro sulla teoria del diritto e dello Stato, il quale inserì il concetto dell'etica, in termini soprattutto giuridici, all'interno della costruzione dello Stato proletario. Pasciukanis, come poi altri grandi pensatori di quell'epoca, poi scomparve nei lager staliniani, perché in questa sua teoria del diritto e dello Stato aveva un pochettino esagerato i tempi in cui lo Stato proletario era bene che deperisse, no? E questo qui. Quindi c'è un Trotsky che si misura sull'etica, però attenzione, non è un maestro di università che ha la cattedra di filosofia morale e che vi spiega quindi in chiacchiere quale sarà la possibile etica, no? Questo è un uomo che si è trovato durante la rivoluzione bolscevica a decidere se certe persone andavano fucilate o no, e a volte decideva di sì e a volte di no. È chiaro che queste sono cose che segnano, cioè uno lo fa questo alla luce di un progetto politico, è vero, ma se una persona razionale come Trotsky era non può porsi il problema se sia giusto o no moralmente farlo. E lui delle risposte su questo lo dà nella sua autobiografia. La sua autobiografia lo riprende questo problema, se era giusto o no fucilare i socialrivoluzionari dopo che avevano sparato a Lenin, se era giusto o no ricorrere al terrore rosso durante la rivoluzione, questo ne parla per esempio in Terrorismo e Comunismo, e insomma se li pone questi problemi. Nel Diario d'Esilio si pone il problema se era giusto o no sterminare la famiglia dello zar. La risposta è sì, per carità. Però dice come, attenzione, non è tutto così lineare, si pone questa serie di problemi etici. Tanto che quando si trova a essere messo in questione sul terreno dell'etica, indovinate da chi? Da John Dewey. Da John Dewey fu messo in questione sul terreno dell'etica quando si faceva il tribunale Dewey in difesa di Trotsky contro le calunnie e i processi di Mosca, che all'epoca cercavano di coprirlo di fango. lui gli pose un problema, la repressione di Kronstadt, che fu, questo fu l'assillo che Trotsky si portò fino alla fine della sua vita, perché tutti i suoi più vicini, cioè alcuni dei suoi più vicini compagni e collaboratori, continuarono fino all'ultimo, principale tra tutti, Victor Serge, a porgli il problema di Kronstadt, e glielo pose anche, Dewey direttamente o indirettamente, adesso non uscirono degli articoli sulla stampa, e lui, dovendo rispondere sul terreno dell'etica a John Dewey, scrisse La nostra morale e la loro, che è, credo, l'opera etica principale di Trotsky, e mentre la concludeva, la GPU a Parigi gli uccideva il figlio, un altro figlio, Leon Sedov. L'altro era in quello stesso Sergei, era in quello stesso momento nei lager siberiani, poi sapremo da testimonianze successive che anche che Sergei fu ucciso nei pressi di Vorkuta, no? Ma questo Trotsky sapeva solo che era prigioniero all'epoca, invece Leon Sedov ebbe la notizia che era ucciso, dedicò a Leon Sedov questo scritto e però non si fece minimamente travolgere. Io credo che ognuno di noi umanamente avrebbe usato l'occasione per metterci una postilla, una nota su quanto è atroce, quanto è barbaro lo stalinismo. Trotsky non la pose in questi termini e questo ha salvato lui e noi, perché dalla nostra morale e la loro esce fuori, secondo me, il discorso più compiuto e più lucido sul dramma etico della nostra epoca, cioè sul discorso del fine che giustifica i mezzi. Per gli studenti università chiarisco che questa cosa Machiavelli non l'ha mai detta, che il fine giustifica i mezzi. Questa è stata una lettura forzata assolutamente di Machiavelli. Adesso non vi sto a dire qual è la lettura, potete pensare da soli. Però Stalin sì, Stalin non solo l'ha detto ideologicamente in termini chiarissimi, ma l'ha praticato ed è diventata una filosofia quasi intoccabile. La ritrovate ancora oggi nei comunisti del 1990, sia quelli che sono del sì, del no o del ni. Questo discorso che in fondo il fine giustifica i mezzi, voi lo trovate profondamente radicato. E allora no, su questo Trotsky ci ha lasciato, io credo che forse tra 100 anni si parlerà molto di meno di lui come teorico della rivoluzione permanente, si parlerà molto di più dell'uomo che ha veramente capito che dietro quello slogan si nascondeva un inquinamento ideologico mostruoso del movimento operaio. Secondo, un capovolgimento del razionalismo europeo, quello stesso razionalismo che proprio sul terreno dell'etica aveva già trovato all'epoca dell'Encyclopédie, all'epoca di Diderot, all'epoca di Rousseau, scusate, aveva trovato delle basi razionali nuovamente, anche gli inglesi, perché adesso non ve li sto a nominare tutti quanti. È stato il primo che ha detto assolutamente no, e ha scritto, adesso vi cito a memoria la frase, non è il fine che giustifica i mezzi, ma i mezzi debbono corrispondere al fine. Prima frase, prima tesi. Seconda, il fine a sua volta necessita di essere giustificato. Seconda tesi. Terza tesi, come lo giustifichiamo? Il fine è giustificato se contribuisce a due cose: ad aumentare il controllo dell'uomo sulla natura e a diminuire l'abuso dell'uomo sull'uomo. È chiaro? Lo devo ripetere. Queste sono le tre, ha posto queste tre tesi Trotsky, no? Il fine, i mezzi devono corrispondere al fine. Il fine deve essere giustificato, terzo è giustificato, si aumenta il potere dell'uomo sulla natura e diminuisce lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. All'interno di questo si apre ovviamente una ricchezza di dibattito. Alcune di queste cose le ha riempite Trotsky stesso. Io farò una cosa che non faccio mai, vi leggo una pagina di Trotsky, mai nei dibattiti ovviamente con una cosa del genere, però credo che voi mi concederete, il Presidente me li toglie dal mio tempo di esposizione, vi devo leggere una pagina di Trotsky perché oggigiorno noi parliamo moltissimo di ecologia, giustamente per carità, della necessità di porci su un terreno, diciamo, di equilibrio igienico, razionale, mentale, politico, anche sul terreno del rapporto tra noi e la natura, tra noi e il nostro corpo, tra noi e le idee, no? Credo che questo sia ormai un patrimonio che perlomeno dagli anni 60 in poi appartiene a tutti i movimenti radicali, siano essi comunisti, trotskisti, anarchici, tutto quello che volete. Allora, vi leggo una pagina di Trotsky che sicuramente chi ha letto letteratura e rivoluzione la conosce, però io ci chiudo il libro su questa pagina perché mi sembra che con questa Trotsky ha veramente segnato il punto d'arrivo massimo della sua espressione, anche se la scrive nel 23, notate bene, poi camperà fino al 40, quindi camperà altri 17 anni, però la scrive nel 23 e provate un momentino a pensare che cos'era la Russia del... Oddio, letteratura e rivoluzione, lui la comincia a scrivere nel 21, diciamo che questa pagina è stata scritta tra il 21 e il 23, no? E provate a pensare un momentino che cos'era la Russia di quegli anni. Adesso io ve la leggo un po' lunghetta, ma mi perdonerete. Allora, c'è pure l'acqua, grazie. Grazie, siamo proprio ormai all'efficienza. Grazie, grazie, grazie. Allora, l'uomo nuovo, parola che tutti pensavano fosse di Che Guevara, vero? Pensavate che l'uomo nuovo era un'espressione di Che Guevara? No, ricorre in continuazione nell'opera di Trotsky la ricerca del socialismo come ricerca dell'uomo nuovo. A sua volta Guevara non l'ha ripresa da Trotsky, perché quando morì aveva letto sì e no un paio di libri di Trotsky e quindi non conosceva le storie. L'uomo nuovo, che solo ora si progetta e si realizza, non contrapporrà la gru e il maglio al luogo di accoppiamento degli urogalli e alle reti per prendere gli storioni. Gli urogalli sono degli uccelli un po' particolari, ma esistono, non sono uccelli fantastici. L'uomo socialista vuole governare e governerà la natura in tutto il vuole governare e governerà la natura in tutto il suo insieme, con gli urogalli e gli storioni, mediante la macchina. Attenzione, quindi vuol dire non concezione dell'uomo, del buon selvaggio, no, la natura si domina con la macchina. Egli designerà il luogo dove le montagne devono esserci e dove devono scostarsi, muterà il corso dei fiumi e creerà regole per gli oceani. L'aspirazione a vincere il bisogno, la fame e l'indigenza in tutte le sue forme, cioè l'aspirazione a sottomettere la natura, diventerà la tendenza dominante per una serie di secoli. La passione per gli aspetti migliori dell'americanismo accompagnerà, e poi credo c'è l'americanismo, uno viene a pensare all'americanismo di Gramsci, gli scritti sull'americanismo di cui forse ci parlerà qui Cerrato, la passione per gli aspetti migliori dell'americanismo accompagnerà la prima fase di ogni giovane società socialista. L'ammirazione passiva della natura scomparirà dall'arte. La tecnica diventerà un'ispiratrice molto più potente della creazione artistica. E in seguito la contraddizione della tecnica e della natura si risolverà in una sintesi superiore. L'uomo comincerà finalmente ad armonizzare sul serio se stesso. Si porrà il compito di portare nel movimento dei propri organi, durante il lavoro, il cammino, il gioco, una chiarezza, una funzionalità, un'economia e quindi una bellezza superiori. Egli vorrà rendersi padrone dei processi semiconsci e inconsci del proprio organismo, la respirazione, la circolazione del sangue, la digestione, la fecondazione, e nei limiti del necessario li sottometterà al controllo della ragione e della volontà. La vita, anche quella puramente fisiologica, assumerà un carattere collettivo sperimentale. L'uomo diventerà infinitamente più forte, più intelligente, più raffinato, il suo corpo più armonioso, i suoi movimenti più ritmici, la sua voce più musicale, non la mia che sto perdendo mano a mano la voce. Le forme della vita quotidiana acquisteranno una teatralità dinamica, il tipo umano medio si eleverà al livello di Aristotele, Goethe, Marx. Su questo crinale si eleveranno nuove cime. Ecco, io concludo qui perché credo che questa frase di Trotsky squaderna il dibattito che noi abbiamo negli anni 90, non ho bisogno di sottolinearlo, e ovviamente tutto ciò che non ho detto potrà poi essere ripreso in un secondo momento, sollecitato magari da domande. Pensava che continuava chissà quanto. Sapeva che la fase della citazione era finita. Beh, mi sono tenuto nei 20. No, sì. Pensavo che il passo durasse di più. No. Va bene, allora a questo punto passiamo la parola a Antonio Moscato, docente di storia del movimento operaio all'Università di Lecce. Ma io credo. Il tema che affronto è la trasformazione dell'atteggiamento delle concezioni di Trotsky sull'Unione Sovietica e come mano a mano arriva a definire quella che è l'analisi poi contenuta nella Rivoluzione Tradita, a metterla in discussione costantemente, a rimetterla, a sottoporla a verifica, e come noi stessi possiamo riverificarla alla luce di quello che è accaduto successivamente. Devo dire che rispetto a molti altri argomenti, diciamo, Molte altre affermazioni di Trotsky, su cui è circolata a lungo la tendenza a presentarlo come un profeta, diciamo, e anche ghettizzarlo in questo modo, diciamo, il profeta che riesce a cogliere molti aspetti, eccetera, per non fare i conti con la sua attualità politica. Su questo terreno c'è stata a lungo, fino a pochissimo tempo fa, un'implacabile critica del suo errore di previsione, perché aveva analizzato o è stato ridicolizzata addirittura la sua analisi della burocrazia. Mi ricordo un articolo su Rinascita che diceva questo ridicolo termine inventato da Trotsky, il termine di burocrazia, come se l'avesse inventato lui e non l'avesse casomai, diciamo, applicato e riverificato. Ma soprattutto c'è stata un'insistenza molto forte su un errore di analisi. Non aveva saputo prevedere la sopravvivenza della burocrazia. Oggi che ci troviamo da un paio d'anni in pieno di un processo turbinoso che sta scuotendo i regimi, in primo luogo quello sovietico e quelli sorti sul modello sovietico, possiamo fare una prima verifica di come questa analisi è stata valida nel cogliere il processo e come può servire ancora oggi. Prima di tutto, indubbiamente, dobbiamo registrare le tappe di un'approssimazione successiva che parte da un errore di analisi, errore fatale, credo, all'opposizione di sinistra, che tarda a capire che la burocrazia diciamo, non gioca in proprio. Tutti sanno che nelle prime analisi di Trotsky e dell'opposizione di sinistra si continua a attribuire, diciamo, a vedere il termidoro sovietico come un processo che porta a una rapida restaurazione del capitalismo. Questo è il tipo di analisi che prevale nel 23, 24, 25 e poi, insomma, fino al momento in cui c'è la scoperta che la burocrazia gioca in proprio invece di lavorare per diciamo, creare le basi alla restaurazione capitalistica attraverso la ricostruzione di uno strato capitalistico nella campagna, i famosi culacchi che si arricchiscono, eccetera. Al momento buono fa una svolta brusca e liquida i culacchi e, diciamo, liquida i concorrenti alla dominazione sull'Unione Sovietica in maniera estremamente cinica e tragica, con una, tra l'altro con conseguenze umane già tremende, comincia a definirsi come uno strato sottratto a ogni altro controllo. Quindi Trotsky comincia a riflettere proprio nel 28, 27, 28, 29 e arriva poi a completare nel 1936, nella Rivoluzione Tradita, di cui saluto con molta gioia la riapparizione in questi giorni dopo parecchi anni di interruzione nel editoriale, diciamo, perché è un testo riletto, estremamente attuale, comincia a definire la burocrazia come uno strato da un lato transitorio, intermedio, contraddittorio, ma diciamo assolutamente autonomo e dalla borghesia e dalla classe operaia, di cui è un parassita, uno strato parassitario. A questo arriva, diciamo, a partire dal 28-29, chiaramente a partire dal 33, quando vede la catastrofe dell'internazionale comunista di fronte a Hitler e la responsabilità tremenda, non tanto e non solo nell'aver facilitato la vittoria di Hitler con la politica insensata dell'internazionale comunista, del classe contro classe, socialfascismo, eccetera, eccetera, cioè di avere evitato il fronte unico contro il nazismo, non è solo questo, ma avere fatto una cosa di cui si parla poco e che è tremenda. Per tutto il 1933 si continua a dire che Hitler è un fenomeno ultra passeggero e che non deve preoccupare e che anzi in Germania sta trionfando la rivoluzione proletaria. È questo che appare il colmo della degenerazione, cioè non prendere atto di una sconfitta storica epocale che avrà gli effetti che avrà, tra l'altro in decine di milioni di morti, diciamo, perché apre la Seconda Guerra Mondiale, e a quel punto comincia a parlare di degenerazione irreparabile e del Partito Comunista e dell'Internazionale Comunista e naturalmente dell'Unione Sovietica, che da questo Partito Comunista è diretta. Naturalmente poi, diciamo, dato i limiti di tempo, cerco, sorvolo sulle fasi in cui mano a mano deve combattere altre fasi in cui si definisce il ruolo controrivoluzionario di questa burocrazia su scala internazionale. Dico telegraficamente la fase terribile della nuova ondata, l'ultima ondata di rivoluzione europea, quella del 36 in Spagna e in Francia, che viene deviata e subordinata a esigenze della burocrazia sovietica, e quella poi ancora più terribile, ancora meno nota, del periodo 39-41, un periodo, lui naturalmente lo conosce solo per il periodo 39-40, non avrà modo di valutare gli ultimi effetti, il periodo dell'alleanza con Hitler, che ancora oggi molti storici di area comunista continuano a minimizzare o a giustificare, non solo, diciamo, ricalcando le tracce del libro più giustificazionista che ci sia stato, quello di Amendola sulla storia del Partito Comunista Italiano, fatto come anti-Spriano, ma che è ancora la fonte principale di una persona che va per la maggiore nella sinistra come Canfora, e che giustifica il patto del 39 come un patto difensivo, mentre comportò terribili vicende, non fosse altro la consegna di 2000 comunisti austriaci e tedeschi a Hitler, non fosse altro che la creazione di una zona non di sicurezza ma di insicurezza per l'Unione Sovietica, con annessioni insensate, metà della Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia, cose che si continuano a pagare oggi, perché il risentimento antisovietico in Polonia, i risentimenti antirussi in Lituania, Lettonia, Estonia o in Moldavia hanno origine in quella politica di contrattazione con Hitler alle spalle dei popoli, fatta dalla burocrazia staliniana. In quegli anni Trotsky ovviamente conduce una battaglia severissima, ma mano a mano precisa sempre di più la sua analisi della burocrazia, e continua a dire, contro ogni, diciamo, anche proprio contro una parte del movimento che aveva cominciato a raccogliere faticosamente, che occorre difendere l'URSS, quale che sia la politica criminale della sua burocrazia, perché nonostante tutto l'URSS conserva alcuni elementi di fondo delle conquiste, e si avrà una verifica che naturalmente Trotsky non ha potuto fare perché era già stato assassinato. Quando nel 1941 viene invasa l'Unione Sovietica da Hitler, risulterà abbastanza chiara la sproporzione tra i territori che erano stati annessi tra il 39 e il 40, diciamo, e che in larghissima parte accolgono Hitler a braccia aperte, perché hanno avuto un impatto terribile, diciamo, dalla sovietizzazione forzata, burocratica, con deportazioni di massa, 700 milioni di polacchi, lo sterminio dell'elite intellettuale polacca o lituana o lettona, mentre invece risulterà che non era così infondata la sua analisi, l'analisi di Trotsky sull'URSS, perché nei territori storici dell'URSS la stragrande maggioranza della popolazione difende quel poco di conquiste che era rimasto nonostante lo stalinismo, e lì cadrà Hitler, perché si troverà di fronte a una resistenza eroica dei popoli dell'URSS. In questo, ma certamente a questo punto arriviamo a quello che è l'errore indubbio di previsione, di tempi. Trotsky era convinto che dalla Seconda Guerra Mondiale, di cui diciamo dal 1933 diceva con certezza che era iscritta all'ordine del giorno, la prevedeva in tutti gli aspetti, l'aveva prevista perfino nell'aspetto sterminio degli ebrei, mentre si tappavano gli occhi tutti, compreso i sionisti, di fronte a questo aspetto tremendo. Lui continuava a dire che la Seconda Guerra Mondiale comporterà comunque, in qualunque modo, questa, temeva anche l'antisemitismo in altri paesi e così via, aveva previsto tutto, ma non aveva previsto indubbiamente che la burocrazia potesse uscire, diciamo, indenne dalla guerra. Questo era l'errore di fondo che ha fatto, e tra l'altro non l'aveva messo in conto, ma diceva: se sarà questo, può essere che dobbiamo rivedere tutte le nostre concezioni. Dava per scontato che la burocrazia non sarebbe stata capace di difendere l'Unione Sovietica, questo era il primo punto di valutazione. Va detto che anche su questo non è che andava tanto lontano dalle previsioni, perché alla fine, in una visione provvidenziale col senno di poi, l'Unione Sovietica si è salvata, ma è stata sull'orlo nel corso dei primi due anni di essere completamente, diciamo, schiacciata da Hitler. E non per caso, per quel criterio puramente territoriale, geografico, militare della sicurezza che aveva portato ad estendere i confini, per l'impreparazione militare di fronte a Hitler, per il fatto che la burocrazia per la sua sicurezza aveva preferito sterminare la quasi totalità degli ufficiali formatisi durante la guerra civile e formatisi nei primi anni di costruzione dell'Armata Rossa, con grandissime esperienze anche tecnico-militari, era il primo esercito che aveva capito l'uso dei carri armati, degli aerei, cioè un esercito moderno. sterminati con proporzioni, sapete, che arrivano al 90-95% in alcuni gradi superiori, al 100% nel caso degli ammiragli, nel 37-38. Sterminati per giunta i quadri dirigenti di interi partiti che potevano essere alleati, la Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia, sciolti e sterminati. Quindi la burocrazia aveva preferito per i suoi calcoli rischiare di trovarsi, come ha rischiato nei primi anni, senza una difesa militare, perché la prima fase è di catastrofi militari con milioni di prigionieri, eccetera, e senza avere popoli all'inizio. Nella prima fase non c'è una resistenza e non ci sarà mai in Polonia una resistenza diretta dei comunisti, non ci poteva essere, era stato sciolto con tanto di firma anche di Palmiro Togliatti, il partito comunista, cioè non solo sterminato ma anche sciolto legalmente, non era possibile ricostituirlo. E su questo Trotsky aveva capito che in effetti per salvare se stessa la burocrazia rischiava, ed è arrivata assai vicina a soccombere di fronte a Hitler, perché c'è stata poi la reazione alla fine dei popoli spontanea e non, diciamo, è difficilissima, diciamo, e c'è stato poi a un certo punto anche l'intervento di altri fattori su scala europea. Al termine della guerra, per la previsione di fondo che era basata a questo, una catastrofe della burocrazia e quindi la possibilità di fermare Hitler, di cui aveva colto fin dal 32, dal 33, poi ancora di più, la dinamica e la pericolosità estrema per la sopravvivenza dell'Unione Sovietica, di fronte a questo dice Hitler potrà essere fermato solo dalla rivoluzione. La rivoluzione in quanto tale non c'è stata e non ha vinto in nessun paese, ma la rivoluzione vincitrice non c'è stata, ma c'è stata una grandissima ondata rivoluzionaria tra il 43, 44, 45 in molti paesi d'Europa, compreso il nostro, in Grecia, in Francia, cioè, che ha salvato indirettamente l'Unione Sovietica, perché ha contribuito a creare un fronte e a dare dei colpi in Jugoslavia, dimentichiamo un altro paese importantissimo da questo punto di vista, la Jugoslavia, che ha tenuto impegnate 30 divisioni naziste e ha contribuito a modificare il corso della guerra. Dopodiché però al termine di questo processo, viceversa, vediamo una burocrazia che estende il suo modello a una serie di paesi, Jugoslavia, tutti i paesi che vengono poi inseriti a forza nel sistema, Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria, a prescindere dal livello di consapevolezza e di interesse, eccetera, mentre viceversa altri nel quadro della stessa spartizione vengono sacrificati, nel caso della Grecia, eccetera. E questo ha dato un respiro allo stalinismo e alla burocrazia sovietica per molti anni e ha fatto apparire completamente falsa a moltissimi la previsione di Trotsky, perché dice, beh, in fondo la seconda guerra mondiale non ha portato né la rivoluzione proletaria a cui pensava, né la sconfitta attraverso la rivoluzione politica della burocrazia. Sembrava completamente... completamente fallimentare questa analisi, oggi cominciamo a vedere, a poter verificare un'altra cosa. Qual era l'elemento essenziale dell'analisi di Trotsky sul carattere, diciamo, transitorio, contraddittorio della burocrazia, sulle due anime che esprime a volte in termini, diciamo, personalizzandoli, dicendo l'anima Reis e l'anima Butenko? Reis era un dirigente della GPU che si era unito a un certo punto, ha tentato di unirsi alla Quarta Internazionale ed era stato assassinato mentre prendeva i primi contatti. Butenko era un alto funzionario sovietico che passò al nazismo sempre negli stessi anni, apertamente. Dice, cioè, un'anima che guarda al modello capitalistico e direttamente a quello nazista, e sappiamo che ci furono momenti di grande simpatia e affinità tra nazismo e stalinismo al momento del patto Ribbentrop-Molotov, registrati anche da Ciano nelle sue memorie, perché quando Mussolini protestò con Hitler, dice ma non è pericoloso questo accordo, Ribbentrop diceva ma no, ma noi ormai non è più un paese comunista, ci troviamo così bene a Mosca come tra vecchi camerati, ormai è un paese nazionalista slavo con cui nel 39 pensavano di essere alleati, di poter essere alleati a lungo, soprattutto Ribbentrop, eccetera. E diciamo in quel momento ha rischiato terribilmente l'Unione Sovietica, e al termine, mi accorgo che sono già a parecchio, no, devo abbreviare, scusatemi, perché vedo che sono già un quarto d'ora e voglio mantenermi fedele al principio dei 20 minuti, massimo 25, per chiudere. Vengo alla questione. Dopo la guerra ci ritroviamo con questa estensione del modello sovietico a moltissimi paesi, ci ritroviamo con un modello applicato con tanta più cecità, quantomeno c'erano le basi naturali, penso appunto al caso polacco, ungherese, al caso della Romania, dove c'erano 400 comunisti nel 1944, ma vengono messi alla testa del partito e il partito viene del paese, e il partito viene gonfiato con gente di ogni provenienza, eccetera. E in quel momento sembra appunto completamente crollata questa previsione di Trotsky sulla possibilità di un crollo e di una suddivisione delle due anime della burocrazia, secondo diciamo, l'ipotesi Reis e l'ipotesi Butenko. Per anni sembrava che non ci fosse né un approdo al nazismo, né meno che mai il ritorno agli ideali di cui diciamo, si continuava a farsi bandiera la burocrazia, perché usava l'ideologia del marxismo e del leninismo svuotata di ogni contenuto, ma come è noto, quando uno usa, diciamo, un riferimento, sia pure in forma mistificata ideologica, fa il classico omaggio del vizio alla virtù, e bene o male fa un po' diciamo, di propaganda. Anche nelle epoche più nere del cristianesimo, diciamo, più corrotto e più rappresentato dagli Alessandro VI, il fatto di far riferimento al Vangelo qualche prezzo lo comportava, diciamo, dal punto di vista della possibilità di riscoprire il messaggio cristiano in quanto tale. E nell'epoca in cui il marxismo veniva rappresentato da turpi burocrati avidi, ugualmente il fatto di fare riferimento a Marx permetteva a qualcuno di rifarci i conti. E a un certo punto arriviamo a questa crisi, che non è cominciata nell'89, è cominciata nel 1953, perché è cominciata con la rivolta di Berlino Est, la rivolta operaia e proletaria di Berlino Est del 17 giugno 1953, repressa con i carri armati, ignorata da tutti, dicendo sono tedeschi, quindi nazisti, quindi non contano. Poi 1956, Polonia e Ungheria, ugualmente repressa e ugualmente ignorata dalla sinistra, dalla stragrande maggioranza della sinistra italiana, che diceva in fondo sono residui di Orti, e invece era lo scricchiolio del sistema di fronte ai primi tentativi di autoriforma, di cui adesso abbiamo il quadro per capire esattamente che cos'erano. Il primo tentativo di autoriforma parte esattamente dopo l'insurrezione di Berlino, e parte da Beria, da Laurenti Beria, che a Berlino Est va immediatamente, e poi subito dopo viene destituito per altre ragioni, perché per misura di sicurezza degli altri eredi di Stalin, ma che comincia a concepire la necessità di una modifica, di una trasformazione, di una liberalizzazione, perché si rende conto, e aveva migliori punti di osservazione di altri, che il sistema non funzionava e stava scricchiolando. Sapeva che al di là della propaganda quella era una rivolta operaia, sapeva quello che noi abbiamo saputo dopo anni, che cominciavano le rivolte nei grandi campi di Vorkuta, eccetera, rivolte massicce di milioni di quel 10% della forza lavoro sovietica che alla morte di Stalin lavorava nei campi di lavoro. 10%, un pezzo di fatto tanto grande da significare una trasformazione, da significare, da avere un peso economicamente determinante, perché era lavoro forzato schiavistico che incideva nell'accumulazione dell'uso, e sapeva che non funzionava più, che cominciavano le rivolte, e tentò il primo esperimento, che fu proprio Beria a concepire, quello, il primo governo di Imre Nagy in Ungheria nel 1953, che fu diciamo, poi bloccato l'anno successivo, e poi preparò la grande rivoluzione ungherese del 1956. Poi ci abbiamo, no, non faccio tutto il quadro, lo sapete tutti, ma man mano poi comincia a diventare per parecchi esperienza diretta, l'altro tentativo di autoriforma, il 68 cecoslovacco, e tante altre vicende di questo genere che confermano e che poi arrivano fino all'85, all'inizio dell'esperienza di Gorbaciov, che indubbiamente corrisponde a un tentativo di autoriforma che parte dall'interno della burocrazia, che capisce che non funziona, che cerca empiricamente una strada diversa. Che non l'abbia trovata, e che a mio parere non possa trovare una riforma, diciamo, rimanendo, mantenendo in piedi la sostanza del meccanismo burocratico, è un'altra cosa, ma rivela, diciamo, la falsità di quelle interpretazioni tipiche per esempio della concezione del totalitarismo o di quelle derivate viceversa da una lettura idealistica dell'esperienza sovietica fatta per la diffusione del maoismo in Italia, che presentavano come assolutamente inamovibile e privo di contraddizioni quella società. Quella società era travagliata esattamente da quelle contraddizioni che hanno cominciato ad esplodere non più in periferia come tra il 53 e il 68, ma al centro della stessa Unione Sovietica. E il tentativo di autoriforma, una volta arrivato anche all'interno dell'Unione Sovietica, è diventato incontrollabile, ha già provocato quello che ha provocato nel resto dei paesi dell'Europa orientale, ha avuto le sue prime ripercussioni in Cina, bloccate momentaneamente a piazza Tiananmen, e oggi sta scuotendo questa società. E diciamo, siccome il tempo è molto breve, voglio dire brevemente in che modo, a mio parere, viene un'altra conferma, perché sarebbe troppo banale dire ci conferma che questo tipo di società che è stata creata in Unione Sovietica e che poi è stata esportata o in maniera diretta, diciamo, nel quadro della spartizione del mondo, o semplicemente perché ogni altra rivoluzione, pur vera e genuina, come quella jugoslava, quella cinese, quella vietnamita, quella cubana, hanno finito per fare i conti col modello di partito, col modello di rapporto partito-stato e con la necessità di avere un rapporto privilegiato con l'Unione Sovietica negli anni della formazione, ricevendo dall'Unione Sovietica aiuti, ma anche il virus del modello di organizzazione statale, tutte queste, diciamo, non è solo che risulta contraddittorio e transitorio, ma il tipo di esito di queste crisi comincia a fornirci un elemento molto importante per valutare la validità dell'analisi di Trotsky. Prima di tutto, mai si è vista una società andare a pezzi così rapidamente e così fulmineamente come quella, per esempio, proprio la società si è disgregata oltre che il meccanismo di potere in Romania, nella Germania Est, in Cecoslovacchia, eccetera, nel corso dell'89. Ora, diciamo francamente, in sostanza, tranne quelli che poi sono risultati un migliaio di morti, anche meno in Romania, in forma pressoché indolore e incruenta. Non si è mai vista una classe cedere il potere in maniera così indolore. Se si, diciamo, a parte il caso rumeno, nel caso della Germania Est, della Cecoslovacchia, della Bulgaria, eccetera, ci sono stati dei cambiamenti bruschi, rapidi, eccetera, in maniera incruenta. Perché? Perché in realtà questo strato che Trotsky definiva come uno strato assolutamente privo di una sua validità e di una sua definizione, tanto per, anche dal punto di vista ideologico, che negava se stesso, che si presentava come avanguardia della classe operaia e parte della classe operaia e fingeva di essere investito dalla classe operaia, crolla nel momento in cui non riceve l'investitura. La burocrazia neppure in Unione Sovietica è riuscita a darsi una veste giuridica e legale per il proprio potere. Aveva una pura usurpazione mimetizzata e nascosta, non figura nemmeno nei bilanci il privilegio materiale della burocrazia sovietica, viene passato sotto mano, sotto banco, camuffato, e appena entra in scena il movimento delle masse diventa estremamente difficile reggere. Quindi una fragilità estrema che discende in primo luogo da questa terribile contraddittorietà di questo strato e dal suo carattere parassitario. Dopodiché vediamo un altro aspetto che è estremamente importante e che è sorprendentemente era stato descritto in maniera anche minuziosa da Trotsky nella Rivoluzione Tradita, quando prevedeva che dal crollo, allora pensava solo all'Unione Sovietica, pensava a quella, non ce n'erano altri, che dal crollo e dalla caduta del regime sovietico per effetto di una guerra o di altre vicende, dice, della caduta del regime sovietico porterebbe infallibilmente alla caduta dell'economia pianificata e quindi alla liquidazione della proprietà statale, eccetera, eccetera, e così via. Dice, le aziende più favorite sarebbero lasciate a se stesse, potrebbero divenire società per azioni o adottare qualsiasi altra forma transitoria di proprietà, quale la partecipazione degli operai agli utili. I colcos si disgregherebbero contemporaneamente e più facilmente. La caduta dell'attuale dittatura bonapartista senza la sua sostituzione con un nuovo potere socialista annuncerebbe così il ritorno al sistema capitalista con un crollo catastrofico dell'economia e della cultura. E prevedeva, tra l'altro, che un pezzo cospicuo della burocrazia avrebbe cercato di riciclarsi come burocrazia per conto del capitalismo. Ora, è esattamente quello che abbiamo visto già realizzato in pieno nella Germania, nella ex Repubblica Democratica Tedesca, dove il grosso dei quadri della burocrazia si sono ribattezzati democristiani e si sono offerti come burocrazia compradora o come poliziotti inseriti nella nuova polizia democratica, non più nella Stasi, ma rimasta al 99% intatta, per garantire l'ordine in questo pezzo che è l'unico pezzo totalmente assimilato dal capitalismo di questo grande sistema, perché finora nella Polonia, nell'Ungheria, eccetera, sono state digerite dal capitalismo. A parte che la digestione anche della Germania Est non sarà facile, ci saranno parecchi rimurgiti e parecchi problemi, sarà una digestione lenta e complicata, ma comunque è l'unica digestione possibile. In tutti gli altri paesi assistiamo a questo fenomeno, una corsa precipitosa, in Ungheria catastrofica proprio, alla svendita diretta di pezzi del potere statale, all'offerta di settori della burocrazia che cercano di riciclarsi, ma di pezzetti, perché nell'insieme non funziona la cosa. E quindi assistiamo a una verifica del carattere assolutamente fragile, contraddittorio e debole della burocrazia, uno strato che per l'appunto non ha una sua funzione positiva e oggettiva nella produzione, che è frutto del consolidamento e dell'autodifesa di un mostruoso scherzo una terribile ironia della storia, cioè il frutto del consolidamento di una burocrazia nata dall'enorme arretratezza sovietica in condizioni terribili di guerra civile e di accerchiamento, e che poi ha teso a perpetrarsi senza osare costruire un sistema sociale stabile, definitivo e organico. E qui vediamo in sostanza una situazione in cui riemergono effettivamente le varie anime. Abbiamo un'anima che ricorre apertamente a misure fasciste. In Unione Sovietica, in Jugoslavia, che una volta sembrava un paese tanto diverso e oggi appare così profondamente e organicamente analogo all'Unione Sovietica, mentre per anni, guai a dirlo, si offendevano tutti i filosovietici, eccetera, assistiamo a settori della burocrazia che cavalcano apertamente lo sciovinismo e argomenti propriamente fascisti per reggere, per riciclarsi. In Azerbaigian abbiamo visto l'ex dirigente brezhneviano diventare Aliyev, diventare dirigente del nazionalismo azeri, che dà la caccia agli armeni, eccetera. È un fenomeno diffuso. Vediamo burocrati stalinisti che diventano i paladini della caccia agli ebrei e della caccia allo straniero in generale e al conflitto. Abbiamo quest'anima e abbiamo una ricerca conflittuale e difficile, compreso il riapparire faticoso di una corrente marxista in Unione Sovietica e in questi paesi. È una corrente estremamente minoritaria, e chiudo per ragioni di tempo, ci ritorneremo se nel dibattito si vorrà discutere di questo, che ha sproporzione immensa di mezzi. Basta pensare che finalmente nel 90 si comincia per la prima volta a ripubblicare qualche cosa di Trotsky in Unione Sovietica, ma a tirature di poche migliaia di copie, mentre Solzhenitsyn trova 30 milioni di tiratura simultanea per il suo orribile libello, in cui spiega come si stava bene sotto lo zar e come fosse un idillio la vita anche tra le nazioni e come sia necessario ritornare a quello e cacciare i non russi e i non slavi dalla nuova Unione Sovietica. 30 milioni e 500 mila copie di tiratura, mentre le tirature che hanno fatto anche della storia della rivoluzione russa, 50 mila copie fatte da una cooperativa eroicamente di compagni, c'è una sproporzione netta. La grande stampa, e non lo dico io, c'è l'ultimo numero del Passaggio che ha una bellissima intervista a Danilo sul fatto che è passata da una calunnia sistematica e di tutto quello che era occidentale a un'esaltazione acritica, e che ha ancora oggi una serie di tabù. Tra questi c'è per moltissimi giornali ancora Trotsky, ma c'è ancora passaggio al capitalismo che alcuni hanno dato per scontato sia così lineare, così facile e così indolore, esattamente perché non è stato senza conseguenze il fatto di avere mantenuto ipocritamente e ambiguamente come cemento ideologico quel riferimento al marxismo, che oggi dà un punto di riferimento a chi cerca una strada diversa, una minoranza ma a cui dobbiamo collegarci e che non possiamo lasciare sola. E adesso di passare la parola a Rocco Cerrato, docente di storia sociale all'Università di Urbino, che ci parlerà, presumo, dei rapporti tra Trotsky e Gramsci. Il problema dei rapporti tra Trotsky e Gramsci è un problema, non dico marginale, ma certamente molto più contenuto rispetto ai grandi temi di politica internazionale che ci ha fatto intravedere adesso Moscato. E quindi cercherò di seguirlo proprio nei piccoli segnali che presenta. Oltre ad essere un problema secondario, ridotto di proporzioni, presenta anche delle difficoltà di lettura, perché noi non abbiamo forse tutta la documentazione di cui avremmo bisogno per poter stabilire e decifrare bene questo rapporto. Per questo non sappiamo neppur dire, a mio avviso, se per Gramsci almeno, non penso per Trotsky, fu un rapporto molto significativo, molto importante. Penso che per Trotsky fu un rapporto poco più che casuale, anche se certamente Trotsky conosceva Gramsci e conosceva l'esperienza politica di questo uomo italiano. Per Gramsci forse il rapporto con Trotsky fu più importante. Perché dico più importante? Perché ho l'impressione che Gramsci, quando è preoccupato di definire alcuni temi importanti per la sua ricerca, cerca un confronto con Trotsky quasi. Sono piccoli accenni, però a mio avviso abbastanza significativi. Certo, c'è un vuoto, una lacuna in questo che bisognerebbe poter colmare con dei documenti, con una maggiore informazione, che forse esiste e che io non ho, o che forse non esiste ancora e che è consegnata, se è consegnata, dei documenti ancora di archivio. Cioè, quando Gramsci va in Russia e rimane in Russia per quasi un anno, certamente ha dei contatti con Trotsky. Certamente quindi ha parlato con Trotsky, si è confrontato con lui su dei temi di politica internazionale e forse anche su altri aspetti della vicenda rivoluzionaria di quegli anni. Però noi non abbiamo nessun documento, a meno io non li conosco, che ci permettono di analizzare e di studiare quanto è stato intenso questo rapporto. Ecco, con questi limiti il mio discorso si bilancia su due momenti. Il primo è il rapporto Gramsci-Togliatti, Gramsci-Trotsky, finché Trotsky non è in carcere. Il secondo invece riguarda il periodo del carcere. Gramsci non è in carcere. Gramsci, prima del periodo del carcere, si interessa di Trotsky fin dall'inizio delle sue esperienze politiche, pubblica degli articoli di Trotsky, per esempio sul Grido del Popolo, ne pubblica sull'Ordine Nuovo, e quindi in questo modo dimostra un'attenzione vigile a tutto ciò che Trotsky scrive. E dalle citazioni lungo tutta l'opera di Gramsci si vede che certamente ha seguito tutte le pubblicazioni di Trotsky uscite in Italia e uscite in Francia. Se in più poi, quando si reca in Russia, ha avuto modo di conoscere più ampiamente tutta la produzione di Trotsky, allora capite che ritorna il problema. Forse nella presenza di Gramsci in Russia c'è stata l'occasione per approfondire la conoscenza di Trotsky, per allargarla, per valutarla in tutta la sua complessità e tutta la sua statura politica. Però noi di questo non abbiamo una documentazione sicura. Nel periodo precedente al carcere, il primo documento interessante e anche simpatico è una lettera che, come voi certamente conoscete, Gramsci scrive a Trotsky, perché Trotsky sta per pubblicare un libro sulla letteratura e vuole delle informazioni circa il movimento futurista. E Gramsci scrive una lettera a Trotsky dove fa il quadro del futurismo italiano. È interessante la lettera non per quello che ci dice su Trotsky, ma per quello che ci dice su Gramsci. Ci dice una simpatia certa di Gramsci verso il futurismo, ci dice un'attenzione di Gramsci per i protagonisti del futurismo, proprio anche al di là delle posizioni politiche che noi sappiamo poi questi futuristi vennero ad assumere successivamente. Si ha quasi l'impressione che anche di fronte a un testo così risibile dal punto di vista politico come quello di Marinetti sull'aldilà del comunismo, Gramsci, proprio per la simpatia che ha verso il futurismo, sorvoli sulla scarsezza e sulla vacuità politica del testo. Il problema è di spiegare perché Gramsci ha questa attenzione verso il futurismo, perché avverte in questo movimento di avanguardia una capacità rivoluzionaria e difatti lo vuole dimostrare, lo dimostra anche con dei dati che poi si sono rivelati non esatti. Dice che il movimento, gli operai italiani sono attentissimi al fenomeno del futurismo, cita la famosa frase che una rivista, La Cerba, che aveva una tiratura di 20.000 copie, era diffusa per 4/5 fra gli operai. Noi sappiamo, per un intervento fatto successivo da Leonetti, che questo non è possibile. La Cerba non poteva avere 20.000 copie perché Navanti ne aveva appena 40.000. Se voi pensate che i 4/5 che dovevano leggere gli operai, allora vorrebbe dire che questi operai italiani leggevano più La Cerba che non Navanti, il giornale ufficiale del Partito Socialista, e questo non è possibile. Ma soprattutto non è possibile perché ormai sappiamo che La Cerba tirava 8.000 copie, quindi non poteva averne 20.000, avendone al massimo stampato 8.000. Dopo ci sono state delle ricerche che hanno fatto capire perché Gramsci è incorso in questo equivoco e in queste sbaglie, no? Aveva avuto una fonte, si era fidato di quella fonte e la fonte non era attendibile. Certamente il commento che Trotsky poi fa nel suo libro sul futurismo è un commento che si inquadra nelle analisi che faceva prima il compagno quando parlava delle prospettive che sull'arte aveva Trotsky. Quindi Trotsky ridimensiona la funzione del futurismo, anche se accetta in parte questa valutazione positiva che dà Gramsci. Il secondo testo sul quale voglio solo richiamarvi, perché è stato anche analizzato attentamente in un articolo comparso sul Manifesto e che voi avete qui nella carpetta da Natoli, è un resoconto di un dibattito che avviene al Comitato Centrale del Partito Comunista d'Italia, il Comitato Centrale del 1925, dove è presente Gramsci, e si discute della questione Trotsky. Nella discussione che viene fatta sulla questione Trotsky, ecco, si comprende bene che Gramsci non è schierato per la posizione di Trotsky all'interno del Partito Comunista Sovietico e all'interno della Russia. Quindi io credo che certi modi di dire che sono poi dopo comparsi nella storiografia o nella letteratura così militante, che tendono a presentare un Gramsci filo trotskista, sono tutte osservazioni che possono voler dire un'attenzione certa di Gramsci nei riguardi di Trotsky, perché Gramsci non ha mai cessato di pensare a Trotsky come uno dei militanti più impegnati della rivoluzione russa e quindi un compagno col quale bisognava continuamente confrontarsi. Se vuol dire questo, allora sta bene, ma siccome quando si parla di filotrotschismo si vuol dire che Gramsci avrebbe in un qualche modo accettato anche la posizione politica di Trotsky nel momento dello scontro fra Trotsky e Stalin all'interno del Partito Comunista Sovietico, io credo che questo non sia lecito dal punto di vista storico. Gramsci era schierato con la maggioranza del partito, anche se aveva delle preoccupazioni, e queste preoccupazioni erano preoccupazioni che in germe potevano contenere anche una diversificarsi della sua posizione successivamente rispetto a quella del partito. Ma quando noi esaminiamo i testi, questo per esempio del 1925, dobbiamo concludere quello che dicevo poc'anzi. C'è un punto sul quale però voglio soffermarmi, su questo primo intervento, no? Che noi non possiamo dire che sia proprio direttamente di mano di Gramsci, perché è un verbale del dibattito del Comitato Centrale, quindi sapete che in un verbale possono essere riassunte l'insieme delle posizioni o il punto di vista generale di tutti, non il punto specifico di Gramsci, però forse in questo punto è proprio la voce di Gramsci che si fa sentire. E la voce di Gramsci che si fa sentire è nel punto in cui dice che nella mozione si dovrebbe inoltre dire come le concezioni di Trotsky e soprattutto il suo atteggiamento rappresentano un pericolo, in quanto la mancanza di unità nel partito in un paese in cui vi è un solo partito scinde lo Stato. Il pensiero di Gramsci qui sembra abbastanza chiaro, dice che la posizione di Trotsky è pericolosa perché può creare una scissione, ma la pericolosità non dipende, mi sembra di leggere il testo, dal fatto che non sia legittimo avere posizioni diverse su una situazione politica all'interno dei compagni. Ma la pericolosità della posizione diversa dipende dal fatto che c'è un solo partito e per di più il partito si identifica con lo Stato e perciò una spaccatura all'interno dell'unico partito provocherebbe una divisione che si ripercuoterebbe sulla divisione dello Stato stesso, creando una situazione di disagio per l'intera situazione russa, e ciò vorrebbe dire una situazione critica per l'unico paese in cui si è compiuta la rivoluzione. Ecco, a questo punto il problema è quello di andare oltre queste frasi, di capire se Gramsci al suo interno pensa ancora quello che pensava quando precedentemente discuteva dei consigli di fabbrica nell'ordine nuovo, quando cioè pensava alla possibilità di una pluralità di partiti proletari all'interno dello Stato proletario, e quindi se non vedeva questa se ancora adesso pensava non corretta poi in fondo la unicità del partito e quindi una sovrapposizione di partito allo Stato, per cui tutto il pericolo della situazione per Gramsci in Russia derivava proprio da questi due elementi, che erano però due elementi ormai assodati all'interno della situazione russa e che quindi rendevano tutta la situazione russa molto precaria agli occhi di Gramsci. Voi sapete che questo dibattito continua successivamente nel 26 con una lettera che Gramsci spedisse a nome del partito italiano in Russia a Togliatti, dove le critiche nei riguardi del modo di condurre il dibattito politico in Russia diventano ancora più pressanti. Sapete le vicende, perché ormai ci sono state narrate abbondantemente, come Togliatti non presentò questo documento, lo tenne nascosto, rispose dissenziendo dal documento. Sapete la controrisposta di Gramsci, in cui Gramsci ribadisce i propri punti, e sapete ancora che quando dopo nel dibattito successivo in Russia Stalin e la corrente della maggioranza, sembra soprattutto Bukharin, chiede che il Partito Comunista Italiano intervenga esprimendo favorevolmente la propria posizione a fianco della maggioranza, Togliatti richiede questa adesione del Partito Comunista Italiano, il Partito Comunista Italiano non la manda, Natori dice di aver esaminato l'archivio del partito e di non aver trovato nessun documento in questo favore, anzi sembra che alla riunione è presente Gramsci, e Gramsci è uno di quelli che dice assolutamente di soprassedere, di non mandare questa adesione alla posizione centrista, eppure Togliatti invece dice che interviene e afferma che il partito italiano è d'accordo con la maggioranza. Allora tutti questi sono fatti che evidentemente con altri documenti forse permetterebbero di suffragare una ipotesi in cui le posizioni di Gramsci non giungono mai a identificarsi con quelle di Trotsky, però la sua discussione e la sua critica rispetto alle procedure politiche e alla metodologia politica che vengono adottate in Russia diventano sempre più pertinenti, diventano sempre più specifiche. Adesso vorrei passare un po' rapidamente invece alla seconda parte, perché il tempo sfugge. La seconda parte è evidentemente quella di quando Gramsci è in carcere, e quindi tutto ciò che Gramsci consegna ai quaderni del carcere rispetto al suo rapporto con Trotsky. Ci sono vari accenni, io non li riassumo rapidamente. Parto dal primo. Il primo è un riferimento ad Antonio Labriola. Gramsci dice che Leone Davidovi nelle sue memorie parla di un dilettantismo di Labriola. È stupefacente, dice, scrive Gramsci. Non si capisce questo giudizio, che non è giustificato altro che come un riflesso incosciente di una tradizione della socialdemocrazia russa e specialmente delle opinioni di Prekhanov. Dunque, Gramsci, sapete, è molto preoccupato e molto attento alla elaborazione di Labriola. Dice che Labriola ha un grande merito perché è colui che è riuscito a capire che la filosofia marxista è innestata dentro lo stesso modo di procedere che ha Marx nelle sue opere, e che il problema è quello di riuscire a decodificarla all'interno del pensiero complessivo di Marx, no? Allora questa intuizione per Gramsci, questa intuizione di Labriola è fondamentale, e lui dice che va riproposta e va ripresentata, e si preoccupa che i testi di Labriola vengano diffusi in tutti gli ambienti marxisti. Perciò dice che è stupefacente l'accusa che Trotsky fa di dilettantismo nei riguardi di Labriola. Il testo compare due volte nei quaderni dei carceri, anche la seconda volta, che sta ad indicare sempre un rimaneggiamento e una forma più definitiva che il testo viene a conseguire per volere nella mentalità di Gramsci. È ripetuta la stessa affermazione con una spiegazione, dice, a meno che il dilettantismo non si riferisca alla differenziazione che c'è fra la posizione teorica e la posizione pratica di Labriola, ma questo non avrebbe un gran senso perché non è questo il punto da quale si può partire per valutare la posizione filosofica di Labriola. Quindi dunque vedete un testo che dimostrerebbe un atteggiamento critico nei riguardi di Trotsky. A dire la verità, il testo di Trotsky, a mio avviso, sembra un po' più sfumato. Si ha l'impressione che Gramsci l'abbia letto così, con una preoccupazione di individuare il punto critico. Il testo di Trotsky è nell'autobiografia che Gramsci ha avuto in carcere, e ha avuto una lunga storia che adesso non sto a raccontare. Era molto interessato a questo testo, lo voleva avere in tutti i modi, e subisse varie vessazioni da parte della censura fascista che non gli vuole dare il testo, ma lui insiste perché è preoccupato e vuole conoscere questa autobiografia di Trotsky. Anche questa preoccupazione di lettura e di informazione, a mio avviso, la dice abbastanza chiaramente sui rapporti fra i due. Comunque il testo di Trotsky, lo voglio leggere così, giusto per precisione, dice: come pochi scrittori latini, Nabriola possedeva la dialettica materialistica, se non nella politica, dove era impacciato. E forse questo è questo il punto difficile per Trotsky, che è un politico, prima di tutto, il fatto di essere impacciato in politica, e questo era vero, per Nabriola forse diceva una certa forma di dilettantismo. Certo, nel campo della filosofia della storia no. Sotto quel dilettantismo brillante c'era della vera profondità. Per cui mi sembra che l'ultima frase corregga un pochettino questo giudizio di puro dilettantismo che invece Gramsci estrapola un pochettino dall'affermazione di Trotsky. Il secondo blocco di problemi è il punto centrale, a mio avviso, del rapporto fra Gramsci e Trotsky all'interno dei Quaderni del carcere. Si tratta dei tre testi nei quali Gramsci discute del problema della rivoluzione, della formula della rivoluzione permanente e del problema del passaggio dalla guerra manovrata alla guerra di posizione. Perché dico che sono i testi più interessanti? Ovviamente, lo comprendete, perché da una parte toccano uno, mi sembra, dei nodi centrali della elaborazione politica di Trotsky e dall'altra toccano anche uno dei punti decisivi della riflessione di Gramsci, cioè questo confronto fra il discorso militare e il discorso politico e le variazioni che si pongono nel passaggio dal discorso militare al discorso politico e del ruolo che ha la guerra di posizione e la guerra manovrata nel discorso politico. No? Avrei voluto passare in rassegna tutti e tre i testi, però vedo che il tempo mi sfugge. Il primo, quello è scritto nel 29-30, è quel famoso testo dove lui parla della fortuna della parola d'ordine giacobina lanciata da Marx nel 1848-49. Dice che questa parola d'ordine giacobina è stata ripresa, sistematizzata, elaborata, intellettualizzata dal gruppo Parvus Bronstein e si mostrò inerte e inefficace nel 1905 e in seguito. Era una cosa astratta da gabinetto scientifico. Questo è un giudizio certamente duro che mi sembra voglia dimostrare il dissenso di Gramsci soprattutto nella interpretazione o nella presentazione della formula della rivoluzione permanente, presentata come una certa continuità che si verrebbe a stabilire fra la rivoluzione borghese e la rivoluzione proletaria. Allora lui dice che presentarla in questo modo vuol dire appunto sistematizzarla, elaborarla, intellettualizzarla, renderla una formula del gabinetto scientifico, ma una formula incapace di sapersi adattare alle varie contingenze, alle varie mutevolezze delle situazioni storiche e delle diverse situazioni politiche. Perché la preoccupazione di Gramsci è quella di far vedere come bisogna sempre tenere presente la specificità delle situazioni oggettive nella loro identità storica e politica. E questa preoccupazione, secondo lui, non viene rispettata in questa formulazione che, proprio perché è molto generale, diventa una formulazione che rischia molto di essere astratta. Difatti, quando nel testo successivo, dove si parla del passaggio dalla guerra manovrata alla guerra di posizione, ed è un testo del 1930-1932, mentre il testo che ho letto adesso fa parte del primo quaderno, questo invece fa parte del quaderno numero 6, allora lui, in questo testo, Gramsci si preoccupa di dire e di far vedere che bisogna tenere molto presente le condizioni generali economiche, culturali e sociali di un paese, in cui i quadri della vita nazionale sono embrionali e rilasciati e non possono o sono in grado, bisogna determinarlo, non sono in grado di diventare trincee o fortini che permettono un collocarsi e un dislocarsi della guerra di posizione, della guerra manovrata, quando si ha la necessità di passare dalla guerra di assalto a questo tipo di guerra. Questa sua preoccupazione lo porta Gramsci a dire che allora la posizione di Trotsky rischia di essere una posizione anche qui troppo generale, perché dice che a Trotsky bisogna riconoscere il merito di essere stato il pensatore più acuto circa il problema dell'attacco frontale in un periodo in cui esso è solo causa di disfatta. Quindi per Gramsci Trotsky ha questo grande merito di essere colui che ha saputo meglio interpretare quella che deve essere la strategia e la tattica del movimento operaio in un momento di assalto. E pensa, mi sembra di intravedere questo nelle formulazioni di Gramsci, che Trotsky sia portato a trasportare pari pari le sue intuizioni acute e valide sulla guerra di assalto quando si passa alla guerra di posizione o alla guerra manovrata, e continui ad avere le stesse esigenze non valutando la diversità della situazione che si è venuta a determinare. Però bisogna dire che su questo punto forse Gramsci è in carcere, non ha la possibilità di confrontarsi ovviamente con altri, vive una situazione politica tutta particolare rispetto anche al proprio partito, rispetto ai compagni, è assillato da questo problema, perché questo gli si sta rivelando sempre di più come il problema più centrale per la storia di una interpretazione della possibilità della rivoluzione proletaria in una situazione di capitalismo avanzato. Forse avverte che tutta la riflessione maturata all'interno degli ambienti dei compagni, degli ambienti comunisti negli anni attorno al 1920 sono datati in un certo modo, no? Allora tutta questa situazione psicologica e personale che lui sta vivendo forse incide sul modo di interpretare che fa Gramsci nei riguardi di Trotsky. E un'ultima cosa che vorrei dire, Trotsky, Gramsci certamente non conosce per esempio tutta questa riflessione che abbiamo sentito adesso presentare da Moscato e che ha continuato invece Trotsky a elaborare così intensamente, e quindi il confronto secondo me fra i due è un confronto sfocato, perché avviene su un ricordo di posizioni che Trotsky aveva forse in un passato, su una riflessione attuale che Gramsci sta facendo ora, senza sapere il cammino e il processo che Trotsky a sua volta ha fatto, per cui non c'è un vero confronto fra i due nella elaborazione del medesimo problema. Ho concluso, ho finito, ho altri due appunti che vorrei accennare. Come diceva prima il primo relatore, in questa fase Gramsci si interessa anche del problema dell'americanismo. Non può non interessarsene, proprio perché è attento ai problemi della rivoluzione in un paese a capitalismo avanzato. Voi sapete che oggigiorno gli studi su Gramsci si orientano sempre di più cercando di mettere a fuoco questa parte della sua riflessione come la parte più innovativa e più originale forse. Bene, proprio quando tratta dell'americanismo ritorna l'attenzione per Trotsky, e quindi vedete che non penso sia casuale che nei momenti di maggiore intensità della riflessione di Gramsci, cioè quando individua dei problemi che poi saranno problemi molto importanti, ritorna sempre in confronto con Trotsky, no? Dice Gramsci: interessi di Gheone Davidovi per l'americanismo, suo interesse, suoi articoli, sue inchieste su Beat e sulla letteratura. Queste attività erano meno sconnesse tra loro di quanto a loro potesse sembrare. Poi ancora dice che Trotsky era interessato al problema che era necessario dare supremazia all'industria, ai metodi industriali, e quindi accelerare con mezzi coercitivi di disciplina l'ordine della produzione, di adeguare i costumi alla necessità del lavoro. Sono testi in cui Gramsci sta trattando del problema che con lo sviluppo dell'industrialismo da una parte è venuta una grande crisi sul modo di vivere e sulla civiltà, lui dice, che c'era in Europa fino al momento dello sviluppo dell'industrialismo, e dall'altra dice che lo sviluppo dell'industrialismo comporta la necessità di sviluppare un nuovo stile di vita, un nuovo stile di civiltà. Allora dice che per affrontare questi problemi bisogna...